davvero assurdo pensare a cancellare o a sospendere un vignettista. Francamente, una vignetta può essere bella o brutta, c'è qualcuno cui la vignetta può essere piaciuta o può non essere piaciuta. Il punto non è questo, è la libertà del telecomando, è cancellare un bottoncino dal telecomando e darci una libertà in meno. Non si vede perché la puntata di ieri di Anno Zero ha fatto oltre il 20% di share, si tratta di milioni di persone. Non è possibile pensare che le attese di milioni di persone debbano andare deluse perché qualcuno ha deciso che quel tipo di informazione non si può fare. E questo prescinde dalla valutazione che l'altro 80% fa sull'80% delle persone all'ascolto della televisione su quel programma, cioè se piace o non piace. È una libertà che non può essere cancellata. Esistono una serie di sedi cui ci si può rivolgere se si ritiene che siano stati travalicati i limiti che le nostre leggi fissano. Bene, cerchi di andare in quelle sedi e non si cancelli, perché cancellare significa davvero fare violenza.